Ma il decano aveva dichiarato che per lui, nella sua vocazione, le sue figliole erano la mano destra e la mano sinistra. Chi avrebbe voluto privarlo di queste? E quelle belle ragazze erano state allevate nell'ideale di un amore celeste e ne erano tanto prese che non si erano lasciate toccare dalle fiamme del mondo. Tuttavia, un tempo, avevano sconvolto la pace del cuore di due gentiluomini del gran mondo esistente fuori Berlevague. C'era un giovane ufficiale, Lawrence Levenhelm, che nella città della sua guarnigione aveva condotto vita allegra e si era indebitato. Nel 1854, quando Martina aveva 18 anni e Filippa 17, il suo adirato genitore lo aveva mandato ospite per un mese presso una zia in una vecchia casa di campagna a Fossum, vicino Berlevague, perché avesse il tempo di meditare e ritrovare la retta via. Un giorno venne a cavallo in paese e incontrò Martina sulla piazza del mercato. Egli guardò giù alla bella ragazza e lei guardò su al bel cavaliere. Quando lo ebbe superato e fu scomparsa, egli non seppe se poteva credere ai suoi occhi. Nella famiglia Levenhelm v'era una leggenda secondo la quale un gentiluomo di quella casata aveva sposato una huldre, spiritello femminile delle montagne norvegesi, tanto biondo che l'aria attorno ad esso brilla e tremola. Da allora capitava ogni tanto che un membro della famiglia fosse visionario. Fino a quel momento il giovane Lawrence non si era mai reso conto d'avere per natura un particolare dono spirituale, ma ora sorgeva davanti ai suoi occhi l'improvvisa e potente visione di una vita più alta e più pura, senza creditori, senza scadenze e senza prediche paterne, senza rimorsi di coscienza segreti e spiacevoli, e con un amabile angelo dai capelli d'oro che lo guidava e lo premiava. Grazie alla sua devota zia, ottenne di essere ammesso in casa del decano e vide che Martina era anche più bella quando aveva il capo scoperto. Seguiva quell'esile figuretta con occhi adoranti, ma odiava e disprezzava la figura che lui stesso faceva quando le stava vicino. Era esterrefatto e stordito perché non gli riusciva di trovare qualcosa da dire o una qualsiasi ispirazione nel bicchier d'acqua che gli stava davanti. «Cari fratelli, la misericordia e la verità si sono incontrate», diceva il decano. «Rettitudine e felicità si sono baciate». E i pensieri del giovane erano rivolti al momento in cui Lawrence e Martina si sarebbero baciati. Egli ripeteva ogni tanto quella visita e ogni volta gli pareva di essere più piccolo, più insignificante e più spregevole. Quando alla sera tornava in casa della zia, gettava negli angoli della sua stanza con un calcio i lucenti stivaloni da cavallo e poi, spesso, piegava il capo sulla tavola e piangeva. Il giorno della partenza tentò per l'ultima volta di comunicare a Martina i propri sentimenti. Fino a quel momento gli era stato facile dire a una bella ragazza che l'amava, ma ora le tenere parole gli si incollavano alla gola ogni volta che fissava il volto di quella fanciulla. Quando ebbe salutato la compagnia, Martina lo accompagnò alla porta con un candeliere in mano. La luce le brillava sulla bocca e proiettava verso l'alto l'ombra delle sue lunghe ciglia. Lawrence stava per andarsene in muta disperazione, ma sulla soglia di casa le afferrò all'improvviso una mano e se la premette contro le labbra. «Me ne andrò per sempre», le gridò. «Non ti rivedrò mai, mai più. Qui ho imparato che il destino è duro e che in questo mondo esistono cose impossibili». Tornato alla sua guarnigione, ripensò alla sua avventura e si accorse che non gli piaceva affatto ripensarci. Mentre gli altri giovani ufficiali parlavano dei loro amori, lui taceva del suo. Visto dagli ufficiali e anche dai suoi occhi, era una storia pietosa. Com'era potuto succedere che un tenente degli Ussari fosse stato sconfitto e umiliato da una setta di neofiti dal viso lungo nelle stanze spoglie senza tappeti della casa di un vecchio decano? Allora si spaventò, fu preso dal panico. Era la pazzia familiare che gli faceva ancora portare con sé l'immagine di sogno di una ragazza così bionda che l'aria attorno a lei brillava di purezza e santità. Non voleva essere un sognatore, voleva essere come i suoi compagni ufficiali. Allora si fece coraggio e, compiendo il maggior sforzo della sua giovane vita, si risolse a dimenticare ciò che gli era accaduto a Berlevag. Stabilì che da quel momento in poi avrebbe guardato davanti a sé, non indietro. Si sarebbe dedicato tutto alla carriera e sarebbe venuto il giorno in cui avrebbe fatto una figura brillante in un mondo brillante. Sua madre fu soddisfatta del risultato della visita di lui a Fossum e nelle sue lettere espresse molta riconoscenza alla zia. Non sapeva per quale strana e tortuosa strada suo figlio avesse raggiunto quel felice traguardo morale. L'ambizioso giovane ufficiale attirò assai presto l'attenzione dei suoi superiori e ottenne una promozione insolitamente sollecita. Fu inviato in Francia e in Russia e al suo ritorno sposò una dama di corte della regina Sofia. In quelle alte sfere si muoveva con grazia e disinvoltura, soddisfatto del suo prossimo e di se stesso. Col passar del tempo ebbe perfino occasione di trarre vantaggio dalle parole e dai modi di dire che gli erano rimasti impressi fin dai tempi in cui frequentava la casa del decano. Ora a corte era di moda la pietà. Nella casa gialla di Berlevag, Filippa, la più piccola, portava talvolta il discorso sul giovanotto bello e silenzioso che era apparso così all'improvviso e così all'improvviso era sparito. Allora la sorella maggiore le rispondeva con garbo, mostrandosi impassibile e serena, e trovava altre cose di cui ragionare. Un anno dopo arrivò a Berlevag una persona anche più in vista del tenente Löwenhielm. Il grande cantante parigino Achille Papin aveva cantato per una settimana al Teatro Reale dell'Opera di Stoccolma, trascinando, come ovunque, il pubblico all'entusiasmo. Una sera, una dama di corte che aveva sognato un'avventura con quell'artista gli aveva descritto il grandioso e selvaggio paesaggio norvegese. La sua natura romantica era stata stuzzicata da quel racconto ed egli aveva scelto di tornare in Francia seguendo le coste della Norvegia. Ma si sentiva smarrito in quel sublime paesaggio. Senza nessuno con cui parlare, piombò in una malinconia che gli faceva vedere se stesso come un vecchio alla fine della carriera. E una domenica, non riuscendo a trovare altro da fare, andò in chiesa e udì cantare Filippa. Gli bastò un attimo per sapere e capire tutto. Tradotte nel proprio linguaggio musicale e presentate a lui dalla voce di una giovane donna, aveva scoperto le cime nevose, i fiori selvatici e le bianche notti del nord. Come Lorenz Löwenhielm ebbe una visione. «Dio onnipotente», pensò, «il tuo potere sconfinato e la tua misericordia sale fino alle nuvole». Ecco una prima donna dell'opera che stenderebbe Parigi ai suoi piedi.